un procedimento preventivo, il che significa che la Procura ha ritenuto di fare una richiesta di applicazione della sorveglianza speciale, che è una misura appunto di prevenzione che comporta una serie di paletti molto rigidi sulle condotte, sui comportamenti che un soggetto può tenere, tra cui non frequentare certe persone, non frequentare certi luoghi, non partecipare a pubbliche riunioni, avere sempre con sé un documento, avere degli orari di rientro particolari in casa. E poi accanto a questa misura c'è quella accessoria del divieto di dimora nella città di Torino per 2 anni. Entrambe quindi hanno una durata di 2 anni secondo la richiesta della Procura, che ha recuperato integralmente la proposta che arriva dalla Digos torinese, che in qualche modo ha elaborato l'intero progetto preventivo. Noi ieri abbiamo letto le tesi, insomma, dell'accusa della PM Emanuela Pedrotta, che ha parlato di una spiccata inclinazione alla violenza e all'uso delle armi. Le chiedo, sì, sotto il profilo giuridico, se una tesi del genere è contemplata, può reggere. Ovviamente sul piano argomentativo qualsiasi tesi può essere avanzata. Il punto è che sul piano giuridico, quando si avanza una tesi, bisogna offrire degli elementi di prova o indiziari che la vanno a corroborare, nel senso che il meccanismo giudiziario questo prevede. Tu hai degli elementi di prova, da questo inferisci dei dati o delle conclusioni specifiche sulle condotte, sulla responsabilità o sulla pericolosità sociale, in questo caso dei cinque soggetti. E qui invece il pubblico ministero ha fatto un'affermazione del tutto congetturale, buttata lì senza poi peritarsi di dimostrarla approfonditamente. In realtà il ragionamento è un po' complesso. La Procura in realtà è partita da una valutazione che poi ha abbandonato per strada, che era l'inserimento di questi 5 soggetti in una particolare categoria prevista dal decreto, dal testo unico sulle misure di prevenzione, che riguardava la partecipazione in un'area di conflitto bellico con un'organizzazione terroristica. Poi si è resa conto che era forse un azzardo eccessivo cavalcare questo tipo di proposta e ha rimeditato il tutto e ha formalizzato una proposta che si coniuga su 2 versanti, e cioè si dice: queste persone sarebbero pericolose per la sicurezza pubblica perché hanno commesso dei reati a Torino e in Val di Susa, alcuni accertati con sentenze, altri soltanto con procedimenti ancora pendenti. La loro pericolosità è acuita dal fatto che sono andati nel nord della Siria, si sono unite alle formazioni combattenti curde e hanno acquisito delle competenze militari specifiche, che fa sì che la loro pericolosità sia aumentata perché possono riversare queste competenze nel conflitto sociale italiano o valsusino. Allora, è un'affermazione non sorprendente, ma di più, su tutti e 2 i fronti. Poi partirei da questo secondo, che è quello più significativo e che è consentito di selezionare queste 5 persone perché nella loro situazione, con lo stesso bagaglio di carichi pendenti o di condanne, ci sono almeno un centinaio di persone a Torino, ma forse di più. Il fatto che invece si faccia un procedimento di prevenzione solo per loro dimostra il fatto che in realtà l'elemento dirimente, l'elemento discriminante che seleziona le loro posizioni rispetto alle altre, che sono andati nel nord della Siria. Allora, intanto la Procura non sa esattamente nemmeno che cosa è capitato nel nord della Siria, perché ci sono delle imprecisioni straordinarie nella ricostruzione storica di questi passaggi. Non si fa mai menzione al confederalismo democratico, alla carta del Rojava, si menziona soltanto di passaggio ad un certo punto l'ISIS in una brevissima frase, come se fosse indifferente il fatto che questi sono andati, evidentemente mossi da quello che io ho sostenuto essere un afflato etico, per andare a condividere quella battaglia, per andare a difendere le popolazioni civili e perché erano interessati a quel progetto straordinariamente avanzato di superamento della forma Stato, eccetera, eccetera, insomma, di una democrazia federale, ecologica, con il rilancio dei diritti delle donne, eccetera, eccetera, insomma, quello che è in qualche modo l'esperienza del Rojava. Di tutto questo non c'è traccia nella proposta, invece si dice questi sono vicini al PKK, che è un'organizzazione marxista-leninista di stampo terroristico, senza nemmeno avvedersi che la Corte di Giustizia Europea alla fine del 2018 ha espunto in qualche modo l'inserimento del PKK nell'ambito della lista delle organizzazioni terroristiche. Quindi imprecisioni aiosa. Dopodiché, al di là delle imprecisioni, quello che sgomenta è il percorso argomentativo che consente alla Procura di arrivare a definire pericolosi questi soggetti, nel senso che la Procura non si fa carico di capire perché sono andati lì, non si fa carico di capire come sono tornati lì e quindi con che tipo di prospettiva personale o collettiva. Da una zona di guerra si può tornare con una affascinazione militare, oppure si può tornare con la consapevolezza che la guerra è una cosa terribile, ogni tanto si deve fare perché si devono difendere delle popolazioni civili, ma si torna non carichi di militarismo o con voglia di applicare applicare le regole militari nel terreno italiano. E evidentemente loro non erano, come dire, affiliati all'ISIS, erano contro l'ISIS, e questo fa la differenza. E invece sembra che sia un dato assolutamente neutro per la procura. L'ulteriore dato clamoroso è che la procura non sa, o sembra non sapere, ma prima della procura direi la polizia, sembra non sapere qual è il livello del conflitto sociale italiano, che è un conflitto sociale a volte aspro, ma comunque di bassissima intensità. Allora, pensare che tu vai in Siria, acquisisci delle competenze militari e poi vieni qui e ti metti a fare la lotta armata è una roba che neanche, insomma, non so, io non sono neanche in grado di commentare, tanto è completamente avulso dal contesto storico, è completamente congetturale, ma completamente fondata sul nulla. Sì, non siamo negli anni 70, insomma. Esatto, già negli anni 70 avrei delle preoccupazioni, perché insomma si potrebbe sostenere che tutto ciò non sarebbe pacifico, ma nel 2019 pensare che ti vai ad armare, vai a combattere là e poi torni con questa roba e decidi di fare chissà che, anche perché se io procura avessi questa idea, avrei tentato di sviluppare delle indagini per capire se questi stanno cercando di ottenere delle armi, se fanno delle riunioni specifiche su questo, e tutto questo non c'è evidentemente perché non esiste. Allora, dire che è una illazione infondata è quasi poco, insomma, è molto peggio. Ieri sempre al PM, visto che comunque stanno accadendo cose appunto in queste settimane, abbiamo visto anche un'ondata emotiva per la morte di Lorenzo Orsetti, la PM ha citato questo caso facendo un distinguo, sarebbero posizioni diverse quelle delle 5 persone che vuole sottoporre a sorveglianza speciale rispetto ad altri italiani che sono andati a combattere in Siria. Il distinguo deriva solo dal fatto che il PM non sa chi sia Lorenzo Orsetti, quindi non è in grado di specificare se Lorenzo Orsetti ha partecipato a manifestazioni, perché poi basta questo: nella scheda straordinaria che è stata costruita per ciascuno di loro c'è un elenco delle manifestazioni a cui hanno partecipato, si dice che fanno parte chi dell'area anarchica, chi dell'area autonoma riferita a un centro sociale, che è il centro sociale a Scatasuna, cioè si fanno dei commenti sulla vita, sul percorso politico, che è tutta roba che non dovrebbe nemmeno essere presa in considerazione. Poi c'è questo distinguo finale per cui si dice Lorenzo Orsetti no, perché non ha la storia personale di questi. Tanto non si sa se sia così, ma poi la storia personale di questi signori è fatta di manifestazioni, fatta di partecipazione, come dire, a quello che è la conflittualità sociale torinese o valsusina, quindi niente di particolarmente trascendentale. Il dato clamoroso è che poi si selezionano nelle lettere che loro scrivono, nelle interviste che hanno dato e nella pubblicistica che insomma in questi anni è uscita su questa roba, una serie di frasi che la procura ritiene, come dire, sintomatiche della pericolosità. Io su questo mi sono non solo arrabbiato, ma ho trovato che fosse veramente incredibile e increscioso che si potessero citare, perché le frasi sono: un ragazzo scriveva io vado in Siria perché credo che si debba combattere lì quella roba che stiamo facendo, e poi in Italia contro il capitalismo. Io sto dalla parte degli sfruttati e lotto contro i padroni. Voglio dire, ma se basta questo a ritenere che questo è un sintomo di pericolosità sociale, vabbè, insomma, ci sono milioni di persone in tutto il mondo, ma anche in Italia, che sono pericolose socialmente. Perché essere contro il capitalismo, voglio dire, le migliaia di persone che sono scese in piazza per la difesa del clima, credo avessero molte di loro in testa il fatto che il capitalismo è un sistema economico di rapina, di devastazione delle risorse, e quindi erano contro il capitalismo. Se tutto ciò basta a definirle pericolose, allora siamo tutti pericolosi, non si salva più nessuno. Lei prima spiegava l'essere andati in Siria per la procura costituisca una sorta di aggravante rispetto a procedimenti aperti o passati in giudicato che riguardavano altre cose, ma in questo caso non c'è il sospetto, insomma, che ci sia un cambio di oggetto allora per quanto riguarda la discussione sulla sorveglianza speciale? Cioè, in realtà, se a essere sotto esame è il curriculum di queste persone e non il fatto di essere andati in Siria? Dunque, la procura penso sia abbastanza consapevole della debolezza delle proprie osservazioni, e quindi per rafforzarle cosa fa? Ragiona su due passaggi e dice: da un lato voi siete pericolosi perché partecipate alle manifestazioni, ci sono stati degli scontri, qualcuno di voi è stato condannato, altri hanno dei processi pendenti. Siccome tutto questo è un po' debole, rafforza tutto questo, quindi c'è una sinergia tra i due aspetti, rafforza tutto questo dicendo però voi siete anche andati in Siria e quindi siete maggiormente pericolosi perché avete delle competenze che vi rendono più pericolosi di altri. Consapevole del fatto che il percorso giudiziario di questi signori è, adesso io ne difendo 3 su 5, i 3 che difendo 2 sono addirittura incensurati, uno ha patteggiato una condanna per resistenza per fatti valsusini 1 anno e 6 mesi, hanno tutti dei carichi pendenti, abbastanza modesti, poi per, come dire, corroborare e montare in qualche modo ancora di più la valutazione sulla pericolosità, la procura cita una serie di fatti che sono avvenuti a Torino nel 2018 che sono praticamente inesistenti, la partecipazione dei presidi, come se questo potesse essere rilevante, o addirittura la partecipazione a un'iniziativa fatta davanti a un locale che non pagava un lavoratore, per cui c'è stata la vendita di, anzi la cessione quasi gratuita di bevande e l'ostensione di uno striscione. Tutto questo per la procura è sintomatica di accresciuta pericolosità e di attualità della pericolosità. Quindi se questo è il livello delle argomentazioni, voi capite che ci si deve indignare, si può controreplicare, però ci si dispera anche, perché è quasi avvilente doversi mettere a dire: ma guardate che partecipare a un presidio non può essere pericoloso, no? Un'ultima cosa, un'ultima battuta: ora i giudici si riservano 90 giorni di tempo, è un tempo, come dire, in linea con quelli di questi casi? Dunque, i giudici entro 90 giorni, che vuol dire che potrebbero anche domani depositare il decreto, probabilmente lo faranno, insomma, nel giro di qualche mese senza dubbio. Qui la particolarità di questo procedimento di prevenzione è che, a differenza del solito, i proposti, così si chiamano i 5 che sono stati destinatari di questa richiesta, hanno chiesto l'udienza pubblica e quindi abbiamo fatto un procedimento in pubblica udienza con la partecipazione del pubblico. Allora il problema è: il provvedimento conclusivo come deve essere? Un provvedimento pubblico o può essere un provvedimento camerale, come avviene, quindi preso in camera di consiglio dei giudici senza la lettura pubblica? I giudici hanno optato per questa seconda alternativa, ritenendo che possono decidere con calma, e si sono presi un lasso di tempo molto ampio, perché probabilmente in quel lasso di tempo faranno il provvedimento e lo motiveranno anche. In altre situazioni che ho seguito direttamente a Torino, in genere c'è una, come dire, segmentazione in due tempi: i giudici nel giro di 2 o 3 settimane escono con un dispositivo e poi la motivazione arriva in genere dopo 2 o 3 mesi, o forse anche 4. Qui probabilmente hanno deciso, credo, di fare un provvedimento unico e si sono presi del tempo. Io non so interpretare questo dato, c'è chi ci ha provato, ma credo che sia un dato per il momento tutto neutro, quindi ce lo teniamo così com'è, insomma non vorrei fare dei commenti che poi magari sono del tutto destituiti di fondamento.